Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. I Karenin, marito e moglie, continuavano a vivere nella stessa casa. Si incontravano ogni giorno, ma erano completamente estranei l'uno all'altro. Alexei Alexandrovich aveva posto come regola di vedere ogni giorno la moglie affinché la servitù non potesse fare supposizioni, ma evitava di pranzare in casa. Vronsky non andava mai in casa di Alexei Alexandrovich, ma Anna lo vedeva fuori e il marito lo sapeva. Tutti e tre soffrivano di una situazione che sarebbe stata intollerabile se ciascuno di loro non l'avesse giudicata transitoria. Alexei Alexandrovich si aspettava che quella passione passasse, come del resto tutto passa, che tutti se ne sarebbero dimenticati e che il suo nome non ne sarebbe rimasto disonorato. Anna, dalla quale questa situazione dipendeva e per la quale essa era più tormentosa che per tutti, la sopportava perché non solo si aspettava, ma era fermamente convinta che tutto presto si sarebbe risolto e chiarito. Non sapeva assolutamente che cosa avrebbe potuto risolvere la situazione, ma era fermamente convinta che ormai questo qualcosa sarebbe venuto molto presto. Vronsky, che senza volerlo era influenzato da Anna, aspettava anch'egli qualcosa che, indipendentemente da lui stesso, avrebbe chiarito tutte le difficoltà. Tornato a casa, Vronsky vi trovò un biglietto di Anna. Lei scriveva: «Sono malata e infelice, non posso uscire in vettura, ma non posso neanche aspettare più a lungo senza vedervi. Venite questa sera. Alle 7 Alexei Alexandrovich va al consiglio e ci resterà fino alle 10». Dopo aver pensato quasi un minuto alla stranezza del fatto che lei lo invitasse apertamente a casa sua, nonostante l'ingiunzione del marito di non riceverlo, decise che ci sarebbe andato. Quell'inverno Vronsky era stato promosso colonnello, era uscito dal reggimento e viveva solo. Fatta colazione, si coricò subito sul divano e si addormentò. Si destò che era buio, tremando di paura, e accese frettolosamente la candela. Che cosa ho visto di terribile in sogno? Sì, il contadino esattore delle imposte, mi pare, piccolo, sudicio, con la barba arruffata, faceva qualcosa stando chino e a un tratto si è messo a dire in francese certe strane parole. Sì, nel sogno non c'era altro. Ma perché era così orribile? Di nuovo ricordò vivamente il contadino e quelle incomprensibili parole francesi che il contadino aveva pronunciato e il terrore gli percorse con un brivido la schiena. «Ma che sciocchezza!» pensò e guardò l'orologio. Erano già le 8:30. Suonò il domestico, si vestì in fretta e uscì sull'ingresso, avendo ormai completamente dimenticato il sogno e affliggendosi soltanto per il fatto d'essere in ritardo. Arrivando all'ingresso dei Karenin, diede un'occhiata all'orologio e vide che erano le 9:10. Davanti all'ingresso era ferma una carrozza alta e stretta, alla quale era attaccata una coppia di cavalli grigi. Riconobbe la carrozza di Anna. «Viene lei da me?» pensò. «E sarebbe meglio. Mi spiace entrare in questa casa, ma non importa, non posso nascondermi», si disse. E con quei modi da uomo che non ha nulla di cui vergognarsi, assimilati sin dall'infanzia, uscì dalla slitta e si avvicinò alla porta. La porta si aprì e il portiere con un plaid in mano chiamò la carrozza. Vronsky, pur non uso a notare i particolari, osservò tuttavia l'espressione di meraviglia con la quale il portiere lo guardò. Proprio sulla porta, egli quasi si scontrò con Alexei Alexandrovich. Thank you. Gli occhi immobili, spenti di Karenin si diressero verso il viso di Vronsky. Vronsky si inchinò e Alexei Alexandrovich, dopo aver mosso la bocca quasi a masticare, sollevò la mano al cappello e passò oltre. Vronsky lo vide salire in carrozza senza voltarsi, prendere dal finestrino il plaid e il binocolo e scomparire. Vronsky entrò in anticamera. I suoi sopraccigli erano aggrottati e gli occhi brillavano d'uno scintillio cattivo e orgoglioso. «L'hai incontrato?» domandò Anna quando si sedettero al tavolo sotto la lampada. «Ci siamo scontrati sulla porta!» «E lui ti ha salutato così?» Essa allungò il viso e, socchiudendo gli occhi, ne mutò rapidamente l'espressione. Piegò le braccia e Vronsky, nel suo bel viso, a un tratto vide la stessa espressione con cui l'aveva salutato Alexei Alexandrovich. Egli sorrise e lei scoppiò a ridere allegramente con quel simpatico sorriso profondo che era uno dei suoi principali incanti. «Davvero non lo capisco», disse Vronsky. «Se dopo la tua spiegazione in villa avesse rotto con te, se mi avesse sfidato a duello... Ma questo non lo capisco. Come può sopportare una situazione simile? Lui soffre, lo si vede». «Lui», disse Anna con un sorriso beffardo, «lui è perfettamente contento». «Perché ci tormentiamo tutti quando tutto potrebbe essere così bello?» «Ah, lui no, però. Non lo conosco, forse. Non conosco la menzogna di cui è tutto imbevuto. Se si sente qualcosa, si può forse vivere come vive lui con me?» «Lui non capisce, non sente nulla. Un uomo che sente qualcosa può forse vivere nella stessa casa con sua moglie colpevole, darle del tu?» E di nuovo, senza volerlo, lo imitò. «Tu, ma cher, tu, Anna!» «No, non è un uomo, non è un essere umano, è un fantoccio. Nessuno lo sa, ma io lo so. Oh, se fossi al suo posto, da tempo avrei ammazzato, avrei fatto a pezzi questa moglie, una donna come me, e non direi, tu, ma cher, tu, Anna. Non è un essere umano, è una macchina ministeriale. Non capisce che io sono tua moglie, che lui è un estraneo, che è di troppo. Oh, non ne parliamo, non ne parliamo». «Tu hai torto, e hai torto, amica mia», disse Vronsky cercando di calmarla. «Ma fa lo stesso, non parliamo di lui. Dimmi, che cosa hai fatto, che cos'hai? Che cos'è questa malattia e che cosa ha detto il dottore?» Lei lo guardava con ironica gioia. «Indovino che non è una malattia, ma il tuo stato. Quando sarà?» Lo scintillio ironico si spense negli occhi di Anna, ma un altro sorriso, che nasceva dalla cognizione di qualcosa a lui ignoto e da una quieta tristezza, prese il posto dell'espressione di prima. «Presto, presto. Tu hai detto che la nostra situazione è un tormento, che bisogna risolverla. Se tu sapessi com'è pesante per me, che cosa darei per amarti liberamente senza paura? Non tormenterei me stessa e non tormenterei te con la mia gelosia. E questo sarà presto, ma non come noi pensiamo». «Non capisco», disse egli, sebbene indovinasse. «Tu domandavi quando?» «Presto. E io non sopravviverò. Non interrompermi. Io lo so con certezza. Io morirò, e sono contenta di morire e liberare me stessa e voi». Le lacrime le sgorgavano dagli occhi. Lui si chinò sulla sua mano e cominciò a baciarla, cercando di nascondere la propria agitazione, che lo sapeva non aveva alcun fondamento, ma che non poteva vincere. «Ecco, così va meglio», diceva lei, stringendogli la mano con forza. «Ecco la sola cosa che ci è rimasta». Lui tornò in sé e sollevò la testa. «Che assurdità! Che assurdità stai dicendo?» «No, è la verità». «Che cosa? Che cosa è la verità?» «Che morirò. Ho fatto un sogno». «Un sogno», ripeté Vronsky, e istantaneamente ricordò il contadino del proprio sogno. «Sì, un sogno. È molto tempo che ho fatto questo sogno. Sognavo di correre nella mia camera da letto, che avevo bisogno di prendervi qualcosa, di sapere qualcosa. E in camera da letto, in un angolo, c'era qualcosa. E questo qualcosa si è voltato e vedo che è un contadino con la barba arruffata, piccolo e che fa paura. Io volevo fuggire, ma lui si è chinato su un sacco e con le mani rimestava là dentro». Fece vedere come il contadino rimestava nel sacco. Il terrore era sul suo viso E Vronsky, ricordando il proprio sogno, sentì un eguale terrore riempirgli l'anima. Rimestava e ripeteva in francese: «Di parto, morirete di parto, Matiuska!» E io mi sono destata. Alexei Alexandrovich non dormì tutta la notte e la sua ira, aumentando in enorme progressione, al mattino era giunta ai limiti estremi. Si vestì in fretta e, come recando una coppa piena d'ira e temendo di versarla, temendo insieme con l'ira di perdere l'energia che gli occorreva per la spiegazione con la moglie, entrò nella camera di lei non appena seppe che si era alzata. Anna, che credeva di conoscere tanto bene suo marito, fu sbigottita dal suo aspetto quando lui entrò. La sua fronte era aggrottata e gli occhi guardavano cupamente in avanti, evitando lo sguardo di lei. La bocca era serrata in modo duro e sprezzante. Nel passo, nei movimenti, nel suono della sua voce, c'erano una decisione e una fermezza che la moglie non aveva mai veduto in lui. Egli entrò nella stanza e, senza salutare, si diresse dritto verso la sua scrivania e, prese le chiavi, aprì il cassetto. «Che vi occorre?» gridò lei. «Le lettere del vostro amante», disse lui. «Non sono qui», disse Anna chiudendo il cassetto. Ma da quel movimento egli capì che aveva indovinato giusto e, respinta brutalmente la mano di Anna, afferrò lesto il portafogli in cui sapeva che lei riponeva le carte più necessarie. Anna volle strapparglielo, ma lui la respinse. «Sedetevi! Ho bisogno di parlare con voi», disse dopo essersi messo sotto braccio il portafogli e premendolo con tanta forza con il gomito che gli si sollevò la spalla. Lei lo guardava in silenzio, con stupore e timidezza. «Vi avevo detto che non vi avrei permesso di ricevere il vostro amante in casa. Avevo bisogno di vederlo per...» Anna si fermò, non trovando nessuna scusa. «Non entro nei particolari del perché una donna abbia bisogno di vedere l'amante. Io volevo, io solamente», disse Anna avvampando. Quella sua villania la irritava e le dava coraggio. «Come fate a non sentire quanto vi è facile offendermi?» disse. «Si può offendere una persona onesta e una donna onesta, ma dire a un ladro che è un ladro è solamente la constatazione d'un fait. Questa nuova caratteristica, la crudeltà, in voi ancora non la conoscevo. Voi chiamate crudeltà il fatto che un marito lasci libertà alla moglie, dandole l'onesto asilo del suo nome alla sola condizione del rispetto delle convenienze. Questa è crudeltà? È peggio della crudeltà, è vigliaccheria se lo volete proprio sapere», gridò Anna in uno scoppio di rabbia e, alzatasi, volle andarsene. «No!» gridò lui con la sua voce stridula, che adesso si era alzata ad una nota più del solito. L'afferrò per un braccio con le sue grosse dita con tanta forza che le rimasero i segni rossi del braccialetto che lui aveva premuto e la fece sedere a forza al suo posto. «Vigliaccheria? Se volete usare questa parola, vigliaccheria è abbandonare il marito, il figlio per l'amante e mangiare il pane del marito». Lei chinò la testa. Non solo non disse quel che aveva detto il giorno prima all'amante, che lui era suo marito e il marito una persona di troppo, ma non lo pensò nemmeno. Sentiva tutta la giustezza delle parole di lui e disse soltanto piano: «Non potete descrivere la mia situazione peggio di quanto io stessa la capisca. Ma perché dite tutto questo?» «Sono venuto a dirvi...» Lei lo guardò. «No, è stata un'impressione», pensò. Può forse un uomo con questi occhi torbidi, con questa presuntuosa calma, sentire qualcosa? Io non posso cambiare nulla, mormorò. Sono venuto a dirvi che domani parto per Mosca e non tornerò più in questa casa e voi avrete notizia della mia decisione per mezzo dell'avvocato al quale affiderò la causa di divorzio. Mio figlio andrà da mia sorella, disse Alexei Alexandrovich, ricordando con uno sforzo quel che voleva dire del figlio. Voi avete bisogno di Seriosa per farmi male, proferì lei guardandolo di sotto in su. Voi non gli volete bene, lasciatemi Seriosa. Sì, ho perduto anche l'amore verso mio figlio perché a lui è legata la mia ripugnanza per voi, ma lo prenderò egualmente. Addio. E avrebbe voluto andarsene, ma ora fu lei a trattenerlo. Alexei Alexandrovich, lasciatemi Seriosa, mormorò ancora una volta. Non ho nient'altro da dire, lasciatemi Seriosa fino al mio... Partorirò presto, lasciatemelo. Alexei Alexandrovich avvampò e, svincolato il braccio, uscì in silenzio dalla stanza. Su, chez vous, on voit des loups, des bois tout doux. Des filles en peur qui montrent leur, le leur de leur candeur soudaine. Zou, c'est fou, Fairouz, c'est vous, on voit chanter ta voix flûtée comme une coupe de champe, un pagne, une lampe, et zou. Zou, toutes les Joséphines si fines sont lourdes à côté de vous. Je suis si heureuse de dire ici combien je pleure de rire quand je nous voyais dans les rues de Paname comme des petites flammes. On écoutait tout et tous nous vouaient un culte au mois d'août. Ils nous disaient leur vie et nous tenions leurs mains jusqu'au matin. Matin, si loin, si dur, un brodé, petit navire papier. Papier, une cocotte minute, te souviens-tu, Mazou, viens-tu? Il giorno dopo era domenica. Stepan Arkadich passò al teatro Bolshoi per le prove del balletto e consegnò a Masha Cibisova, una graziosa ballerina che vi era entrata da poco in seguito alla sua protezione, i coralli che le aveva promessi la vigilia. E dietro una quinta, nell'oscurità diurna del teatro, riuscì a baciarne il visetto carino, raggiante per il regalo. Oltre al dono dei coralli, aveva bisogno di accordarsi con lei per un appuntamento dopo il balletto. Dopo averle spiegato che non poteva essere presente al principio del balletto, promise che sarebbe venuto all'ultimo atto e l'avrebbe portata a cena. Dal teatro, Stepan Arkadich andò allo Chotny Riad, scelse egli stesso il pesce e gli asparagi per il pranzo e alle 12 era già al Dussault, dove doveva vedere tre persone che per sua fortuna alloggiavano nel medesimo albergo. Levin, che si era fermato lì, arrivato da poco dall'estero, il suo nuovo capo ufficio che aveva appena assunto quell'alto posto e ispezionava Mosca, e il cognato Karenin per portarlo assolutamente a pranzo. A Stepan Arkadich piaceva pranzar bene, ma ancor più piaceva dare un pranzo, non grandioso, ma raffinato, e per il cibo, e per le bevande, e per la scelta degli invitati. Gli invitati sarebbero stati Kitty e Levin e, perché questo non si notasse, anche una cugina e Scerbacchi giovane. E infine, come pièce de résistance dei commensali, Kosnichev Sergei e Alexei Alexandrovich. Sergei Ivanovich era moscovita e filosofo, Alexei Alexandrovich pietroburghese e uomo d'azione. Poi avrebbe invitato anche il celebre, stravagante ed entusiasta Peskov, liberale, chiacchierone, musicista e simpaticissimo giovanotto cinquantenne, che sarebbe stato la salsa o il contorno per Kosnichev e per Karenin. Lui li avrebbe stuzzicati e aizzati. I denari del mercante per il bosco erano stati ricevuti alla seconda scadenza e non ancora spesi. Dolly negli ultimi tempi era molto carina e buona, e il pensiero di quel pranzo rallegrava sotto tutti gli aspetti Stepan Arkadich. Egli si trovava nella più gaia disposizione d'animo. Il giorno innanzi, incontrando per strada Alexei Alexandrovich, aveva notato che era asciutto e severo con lui, e collegando questa espressione del viso di Alexei Alexandrovich e il fatto che non era venuto da loro e non aveva fatto sapere nulla di sé con le voci che aveva sentito a proposito di Anna e Vronsky, Stepan Arkadich intuiva che c'era qualcosa che non andava fra marito e moglie. Ma Stepan Arkadich sentiva istintivamente che tutto si sarebbe accomodato magnificamente. Tutti sono esseri umani, tutti sono uomini peccatori come noi, perché arrabbiarsi e litigare? Pensava entrando nell'albergo. Rimase un'ora intera a chiacchierare con Levin di caccia e delle cose più intime. «Beh, tuttavia per me è ora», disse alla fine Stepan Arkadich alzandosi per la decima volta. «Ma no, siedi», disse Levin trattenendolo. «E adesso quando ci vedremo? Io parto domani». «E io che testa! Ero venuto per...» «Quest'oggi vieni assolutamente a pranzo da noi. Ci sarà tuo fratello. E ci sarà anche Karenin, mio cognato». «È qui», disse Levin, e avrebbe voluto chiedere di Kitty. Aveva sentito che al principio dell'inverno era stata a Pietroburgo da sua sorella, moglie di un diplomatico, e non sapeva se fosse tornata o no, ma rinunciò a domandare. «Che ci sia o no, fa lo stesso». «Allora, verrai?» «Certo, verrò». «Alle 5 allora, e in finanziera!» E Stepan Arkadich si alzò e si recò dal nuovo capo ufficio. L'istinto non l'aveva ingannato. Il nuovo, tremendo capo si rivelò un uomo molto affabile e Stepan Arkadich fece colazione con lui e si trattenne tanto che solamente alle 4 capitò da Alexei Alexandrovich. «Io non posso venire», gli disse freddamente Alexei Alexandrovich, restando in piedi e non facendo accomodare l'ospite. Alexei Alexandrovich pensava di porsi subito in quei rapporti freddi in cui avrebbe pur dovuto essere con il fratello di una moglie contro la quale cominciava una causa di divorzio, ma non aveva fatto i conti con il mare di bonarietà che straripava dall'anima di Stepan Arkadich. Thank you.